riservi di quel che ogni anno voi date a noi. Sperando di avervi divertito tra scheggio e risate, noi torneremo a casa un po' più grandi, lo sapete. Per 7 settimane abbiamo condiviso i giorni, non sono mai troppi, aspetteremo che l'estate torni. Arrivederci estate Gio, e arrivederci ragazzi, io lo so, aspetterò un'altra estate da pazzi. Noi vi cantiamo grazie per questo tempo che è volato, e dopo tanti incontri il tempo di salutare è arrivato. Tempere e pastelli non sono nulla in quanto colori rispetto a divertirsi con voi a scuola andando fuori. Per quasi 2 mesi fra sport e giro del mondo, l'amicizia e l'allegria sono sempre stati intorno a noi. Arrivederci estate Gio, e arrivederci ragazzi, io lo so, aspetterò un'altra estate da pazzi. Arrivederci estate Gio, grazie per tutto questo, ci rincontreremo ancora, ci ritroveremo presto. Arrivederci estate Gio. Grazie.